I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Può sembrare un dato lontano, ma in realtà ci riguarda molto da vicino. A febbraio l'inflazione tedesca è balzata al 2,2%, oltre le aspettative dei mercati, e ai livelli più alti da 4 anni e mezzo a questa parte, quando l'Eurozona era nella fase più acuta della sua crisi. Il balzo tedesco ci riguarda perché ripropone la questione sulla durata della politica monetaria espansiva della BCE. Gli acquisti massicci di titoli di Stato europei fatti appunto dalla BCE hanno consentito finora di tenere basso lo spread dei paesi più deboli, tra cui l'Italia, ma hanno creato problemi di competitività a paesi virtuosi come la Germania, dove infatti in molti, ma non ancora la Bundesbank, chiedono uno stop alla politica monetaria espansiva. Se finirà però lo scudo BCE, è certo che per l'Italia si prospetterà un aumento degli oneri per gli interessi sui titoli pubblici pagati dallo Stato, e in tempi di vacche magre sui bilanci pubblici non è una buona prospettiva. Mario Draghi, che della BCE è il presidente, ha sempre detto che gli acquisti sarebbero continuati fino a quando il livello dell'inflazione media nell'Eurozona fosse vicino al 2%. Probabilmente proprio oggi verrà annunciato il dato ufficiale, che dovrebbe essere l'1,8%. Il dato tedesco darà nell'immediato futuro una nuova spinta verso l'alto al dato medio europeo, ma come dicono un po' tutti gli economisti, questo numero non fotografa il reale stato dell'inflazione e quindi dei consumi, perché è conseguenza solo dell'alta volatilità del prezzo del petrolio, e infatti a fine anno l'inflazione europea dovrebbe tornare a scendere. Il dato dell'inflazione che guarda la BCE è stimato infatti intorno all'1%, motivo per cui Draghi annuncerà che la Banca Centrale Europea continuerà il suo programma di acquisto di titoli pubblici, e l'Italia potrà certamente tirare un sospiro di sollievo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il lavoro, la mancanza di lavoro continua a rappresentare un grosso problema per il nostro paese. I primi dati ISTAT del 2017 forniscono in questo senso alcuni spunti interessanti. Per prima cosa, a gennaio la disoccupazione resta ferma all'11,9%. Il numero degli occupati però aumenta di 236.000 unità rispetto al gennaio del 2016 e di oltre 30.000 unità rispetto a dicembre. Questo è un dato positivo, perché il mese di gennaio è stato il primo, dopo 2 anni di bonus sulla decontribuzione, in cui le assunzioni non avevano più incentivi, che sono finiti nel dicembre del 2016. Quindi, anche senza bonus, le assunzioni a gennaio sono aumentate, e peraltro l'incremento riguarda principalmente i lavoratori a tempo indeterminato, mentre calano i lavoratori a termine. Ci sono poi altri due elementi che meritano una segnalazione. Il primo riguarda i giovani. La disoccupazione è in calo al 37,9%, ma questo dato non va letto con troppo ottimismo, perché a gennaio cresce il numero dei giovani inattivi, cioè coloro che non hanno un impiego e che non lo cercano neppure perché sono convinti di non riuscire a trovarlo. Infine, gli over 50. Qui si ripropone un paradosso che vediamo già da alcuni mesi. Questa è la fascia di età dove l'occupazione cresce di più, anche per effetto della riforma delle pensioni, ma gli over 50 sono anche quelli che hanno pagato di più il prezzo della crisi. In 10 anni il numero di chi ha perso il lavoro è passato dai 150.000 lavoratori del 2006 ai 480.000 del 2016. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.